Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il contrabbassista intona A Love Supreme, un riff che poi viene cantato e ripetuto come un mantra. Dalla sacrestia fa il suo ingresso il predicatore, vestito da cardinale, suonando il sax soprano, e al suo seguito due preti che suonano il sax tenore. Mia moglie mi guarda stupita e mi chiede: ma dove mi hai portato? Sono Christopher, vivo a Genova, 50 anni, e sono sposato con due figli. Sono nato a New York e mi occupo di marketing e vendite. Qualche giorno fa, per una ragione che non sto qui a spiegarvi, ero in una di quelle grandi agenzie di comunicazione di Milano, però credo che sia internazionale, per un altro motivo che non aveva a che fare con la radio. È venuto fuori il discorso della radio, c'era un ascoltatore del programma e qualcuno mi ha chiesto qual era la differenza, secondo me, tra la radio e gli altri mezzi. E lì uno poteva dire le solite cose, no? Che la radio è un mezzo caldo, è un mezzo intimo, che arriva direttamente all'orecchio e alla mente o al cuore di chi ascolta, eccetera eccetera. E invece mi è venuto in mente un esempio che ha a che fare proprio con questo programma qui e con la puntata di oggi, perché preparando la puntata di oggi ci siamo accorti che due settimane fa abbiamo raccontato la storia di un autotrasportatore napoletano che aveva come idolo assoluto e quasi come forma religiosa Diego Armando Maradona. Non so se ve lo ricordate, raccontava del giorno in cui suo padre lo portò allo stadio San Paolo di Napoli a vedere la presentazione di Maradona. La puntata di oggi invece ha a che fare con una storia che riguarda una piccola chiesa a San Francisco negli Stati Uniti, che è una chiesa ortodossa, che ha tra le divinità, come se fosse un santo, John Coltrane. Sono due storie molto diverse ma molto simili, scritte da due persone molto diverse, che hanno mestieri, hanno provenienze molto diverse, ma che in un qualche modo sono arrivate qua. Sono le 16:09 minuti, questa Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno una storia, ogni giorno una persona diversa. Oggi è la storia di Christopher, che vive a Genova e che 70 anni fa, buonanotte, nel 1970 si sposava e in un viaggio di nozze finiva in questo posto incredibile in cui in qualche modo si venera un grande musicista jazz. Ecco perché abbiamo anche chiesto sul profilo Facebook, che è uno dei modi per entrare in questo programma, oltre che attraverso gli SMS al 349-238-6666, abbiamo chiesto: qual è, se ce l'avete, una vostra divinità musicale? E per cui c'è qualcuno che mi scrive nomi che non conosco. Vabbè, Andrea scrive gli U2 e il mio DJ preferito Leo Mas. Rudy, conosciamo Leo Mas? Lo conosciamo. Bene, se lo conosce Rudy lo conosco anch'io. Alvise, Robert Nesta Marley. Bob Marley. Ah, ok, cioè hai provato a fregarmi, Alvise. Augusto, Miles Davis. Vincenzo, io sono patriottico e la mia divinità della musica è il maestro Franco Fasano. Chi è Franco Fasano? È Franco Fasano, ma adesso cerchiamo chi è Franco Fasano. Sono troppe le mie divinità musicali, uno su tutte è Joe Strummer, tra i viventi Iggy Pop e Guccini. Iggy Pop è ancora vivo, è incredibile, che quando lo vedi dici: ma questo l'hanno, no? L'hanno imbalsamato, invece no. Poi ancora Bruce Springsteen, David Gilmour, Pink Floyd, Robert Wagner, Miles Davis... Robert Wagner. R. Wagner. Ma non si chiama Robert Wagner, però. È che mi ha fregato. Sito R. Wagner. Richard Wagner. Richard Wagner. Robert Wagner. Fa veramente schifo. Sì, è vero, sembra un giocatore di serie B, o uno di quei giocatori che può comprare l'Inter, che non sai chi sono ma in un attimo arrivano, come no? 349-238-6666, la vostra divinità musicale. E tutto questo perché quasi, direi, 40 anni fa Christopher, insieme a sua moglie, arrivava a San Francisco. Sono in viaggio di nozze, sono all'aeroporto di San Francisco. Prima di uscire vedo un banchetto con l'immagine di John Coltrane. Mi avvicino, la persona al banchetto mi sorride, riconosce la custodia dello strumento che porto, un sax tenore. Mi viene incontro con una locandina e invita me e mia moglie a partecipare alla messa della domenica. Io resto un po' perplesso, mi sembra brutto rifiutare un invito e quindi gli assicuro che ci sarò. Arriva la domenica. Alle 10:45 siamo al St. John Coltrane African Orthodox Church. L'ingresso sembra quello di un negozio. Vista da fuori non penseresti mai che stai per entrare in una chiesa, ma siamo negli Stati Uniti. Ci stampiamo in faccia un bel sorriso e varchiamo la porta. Era il mio hobby preferito suonare il saxofono 20 anni fa. In quel periodo ero veramente innamorato del saxofono, oltre che a mia moglie. All'interno è a tutti gli effetti una chiesa, una piccola chiesa con tanto di altare, con l'icona di San John Coltrane. Come in tutte le chiese ci sono le panche, al posto dell'organo c'è un pianoforte e di fianco una batteria. Io e lei siamo gli unici. Perplessi, decidiamo di aspettare una decina di minuti prima di alzare i tacchi e andarcene, ma alle 11 in punto arrivano i fedeli. Molti portano con sé uno strumento e prendono posto nelle panche e al pianoforte. Il contrabbassista intona A Love Supreme, un riff che poi viene cantato e ripetuto come un mantra. Tutto è pronto per l'inizio della celebrazione. Dalla sagrestia fa il suo ingresso il predicatore, vestito da cardinale, suonando il sax soprano, e al suo seguito due preti che suonano sax tenore. Mia moglie mi guarda stupita e mi chiede: ma dove m'hai portato? Dopo gli assoli, peraltro molto belli, si ritorna a cantare a Love Supreme per un tempo indefinito, e poi incominciano gli assoli dei fedeli, un violinista asiatico, una flautista dai tratti nordici, e c'è una reale partecipazione cosmopolita e multiculturale. Sto vivendo uno stato di comunione. Tutti noi dentro questa strana chiesa, a cantare e suonare, siamo un tutt'uno in un'unica preghiera, indipendentemente dalla lingua, dalla razza e dal colore. Gli assoli finiscono e con loro finisce A Love Supreme. Il prete si porta all'altare e inizia la lettura delle sacre scritture. Poi incomincia la predica, in un americano un po' stretto, con quell'inflessione tipica delle persone di colore. Non si capisce tutto, ma si sente che ci mette il cuore e tutta la sua energia. Quello che capisco è di stare sereni, felici, perché tutti gli ostacoli della vita sono prove che Dio ci pone per avvicinarci a Lui. Ogni singola prova della vita è stata disegnata da Dio con la certezza che sia superabile, perché Dio conosce bene i nostri limiti. In pratica è la sintesi pragmatica americana che direbbe: ce la puoi fare. Sono le 2 del pomeriggio. Dopo 4 ore che siamo dentro questa chiesa e ancora non si intravede la fine, noi cediamo e ci ritiriamo in silenzio. Era un po' un episodio che uno può ricordarsi un po' il film I Blues Brothers durante la messa. Cioè, era tutta una collettività molto unita e non è che c'era qualcuno che mi era vicino piuttosto che un altro. Erano tutti quanti presi sia a cantare che a suonare in quel momento. Non so se ha ragione, ma mi piace pensare che un concetto astratto come la fede possa essere semplicemente interpretato come ce la puoi fare. Sono passati 18 anni da questa esperienza e la ricordo ancora nitidamente. Il ce la puoi fare di quel giorno mi aiuta ancora oggi e per questo sono convinto sia bello, utile e valga la pena condividerlo con tutti voi. La storia di Christopher mi fa venire in mente quanto la musica abbia spesso un'accezione meditativa o religiosa. E lo è sia per chi suona sia per chi ascolta. Suonare richiede impegno, concentrazione, esercizio e volontà. È una pratica che viene meglio se fatta insieme ad altre persone. E questo ha già in sé qualcosa di religioso. Religioso nel senso che mette in relazione, o che almeno prova a mettere in relazione, il mondo degli umani con il divino. E questo è un bisogno ancestrale di ognuno di noi, forse nemmeno ce ne accorgiamo, nemmeno lo sappiamo, anche quando diciamo di essere atei convinti. E farlo in comune, condividere questa esperienza con altre persone, prende un significato ancora più profondo. La mia esperienza riguardo affonda le sue radici nei primi anni 90. All'epoca la provincia novarese non offre grandi attrazioni, così quelle estati spesso le passo a Carpignano, nel paese del mio amico Mauro, Carpignano Sesia. E per l'esattezza nella sede della banda musicale Santa Cecilia di Carpignano. Santa Cecilia è la patrona delle bande musicali ed è per questo motivo che tutte le bande si chiamano Santa Cecilia. Mauro suona malissimo il sax contralto, ma l'appuntamento con la banda il martedì sera non vuole rinunciarci. E allora io il martedì sera ceno presto, mi prendo lo scooter e lo raggiungo in sede per seguire le prove. Lui stesso mi dice di lasciar perdere, ma io sono come attratto da quel posto, da quelle persone, dalla musica della banda. La banda di paese è un esempio realizzato di società perfetta. C'è una gerarchia rispettata. Il maestro, il presidente, i primi clarinetti, i secondi clarinetti, le prime trombe, le seconde. C'è chi fa la melodia e chi fa l'accompagnamento. Tutti hanno un compito ben preciso e tutti lo devono e soprattutto lo vogliono svolgere. E poi in un piccolo paese è un'occasione irrinunciabile per conoscere tutti. Ci sono i vecchi contadini che insegnano la vita come non hanno mai fatto con i loro figli. Ma ci sono anche gli adolescenti viziati che alla banda si tolgono i vizi e ci stanno alla grande. Ecco, tutto questo penso sia la musica che lo consenta. Queste sono tutte persone che non si saluterebbero nemmeno in un altro contesto. Ma la musica accorcia le distanze come fosse un alfabeto ibrido che dice quello che non si direbbe a parole. Tutti si sciolgono perché è la musica il motivo che li unisce. Anche se si suona male, anche se si attacca in ritardo, anche se è meglio suonare sempre forte perché piano si è tutti o calanti o crescenti. Mai che uno si sbagli a tenere la nota come si deve, anche se glissando è meglio lasciarli a chi li sa fare. In quella comunità ideale, Mauro, che riesce a essere a suo agio pure col Papa, mi ci trascina, mi coinvolge, mi porta alle processioni anche. E io per un'estate porto lo stendardo della banda, una goffa bandiera quadrata che sta davanti a tutti. I servizi della banda sono straordinari, perché dopo aver suonato arriva il rinfresco. E al rinfresco il gioco dei vecchi è ubriacare i giovani, e il gioco dei giovani è provocare i vecchi affinché soddisfino quella fame atavica da contadini. Il risultato sono preadolescenti che sorseggiano Martini Bianco alle 11 della mattina e vecchi che addentano a luglio pandori scaduti farciti con salame di fegato e maionese. E poi tutti si suona male ma lo si vuole fare e quindi va bene così e si torna a casa contenti. E poi quell'estate è passata. Mauro, che ha un anno più di me, ha fatto la patente per primo e ha cominciato a muoversi in macchina. Ci siamo trasferiti nella città insieme e la banda l'abbiamo lasciata alle spalle. Ecco, quell'estate però mi ha insegnato qualcosa. Mi ha insegnato intanto che leggere la musica è un'altra possibilità, è un'altra idea di mondo. Tipo quando senti che noi sfruttiamo solo una piccola percentuale delle potenzialità del nostro cervello. Ecco, beh, leggere la musica per me equivale al tentativo di ampliare lo sfruttamento del cervello. Secondo, che i giovani e i vecchi possono divertirsi insieme. Terzo, che coltivare le proprie passioni e farlo insieme agli altri, come quegli appassionati di musica che si trovano il martedì sera nella sede della banda di Carpignano, equivale a costruire una piccola società ideale. Just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. Se c'è una persona che ama la musica, di solito è particolarmente innamorato di qualcuno, di un cantante, di un musicista. 349-238-6666 arrivano i messaggi di quelli che gli ascoltatori stessi definiscono la loro divinità musicale. Carmen dice Ryuichi Sakamoto, e adesso ragazzi una serie di nomi che... Yaga Brothers, Pat Metheny, Keith Jarrett, Michel Petrucciani e poi Slipknot, Arch Enemy, le 3B, Bennato, Battiato, Battisti. Ma le 3B te le sei inventata tu? Oppure erano conosciuti come le 3B? Cioè, hanno talmente poco da spartire. Il chitarrista Michael Schenker degli MSG e UFO, fratello di Rudolf Schenker, chitarrista degli Scorpions. Potreste veramente scrivermi qualsiasi cosa, io lo leggerei, qualsiasi nome. Vabbè, Jimi Hendrix, Yamandu Costa, giusto? Anche se anche Bonino lo sa. Stefano da Udine, io voto per il dio Ronnie James. 349-238-6666. Si parla di John Coltrane in questo caso. E qualcuno mi scrive, adesso io non lo troverò mai, c'era un messaggio che spiegava Che tipo di chiesa era quella? Era una chiesa episcopale e non ortodossa, e questo spiega il motivo per cui John Coltrane era amato come una divinità. Tutto questo però è arrivato grazie a Christopher, che adesso non è più a San Francisco, ma soprattutto non c'è andato negli anni 70, mi sono sbagliato, negli anni 70 è arrivato in Italia Christopher. Pronto Christopher? Ciao. Ciao, dico bene, tu sei arrivato sì, in Italia negli sì. anni 70, ok. Ok, sì, sì. Perché ho fatto confusione con le date. Perché tu sei nato a New York quando, Christopher? Nel 62, e quando nel 70, avevo circa 8 anni, sono venuto qui in Italia. E sei arrivato subito a Genova con la tua famiglia? No, o... sono stato un po' dappertutto. Sono stato diversi anni a Roma, un po' a Firenze, un po' anche nel Piemonte, e poi mi sono trasferito a Sanremo e sono stato, diciamo, in Liguria per un bel po'. Poi, ma e questi giri erano dovuti... 20 anni sono a Genova. Sei a Genova. Ma questi giri precedenti invece erano dovuti ai lavori di tuo padre, dei tuoi genitori? Sì, diciamo che i miei amavano spostarsi abbastanza. Ok. Senti, invece l'amore per la musica da dove arriva? Ma forse arriva dal fatto che quando ero piccolo andavo a giocare parecchio quando ero in Harlem, e lì la musica era il gioco preferito, diciamo. Quello forse... il primo imprinting. Ma quindi parli delle chiese, del gospel di Harlem, oppure... No, intendo proprio che si andava in casa dei vari amichetti e si suonava assieme, si strimpellava tra la batteria o la chitarra, quello che era proprio come gioco. Uh-huh. E tu cosa... Invece di giocare a calcio lì... Si suonava. Giocava a suonare, esatto. E tu cosa... Quindi che strumento hai imparato, oppure erano... Sapevi suonare tutto più o meno bene? No, lì era proprio il gioco con piccoli strumenti, quei giocattoli. Poi quando ero al Mondovì, per l'appunto, ho incominciato a suonare il saxofono nella banda, per l'appunto, come Nella banda di Mondovì? Nella banda di Mondovì, e lì dove ho incominciato, poi pian pianino ho continuato questo hobby. Ma nella banda però quanto serve realmente? Cioè, dalla mia esperienza non serve proprio tantissimo saper suonare, è più una cosa che tutti quanti ci si copre, no? E si sta insieme e quello che viene fuori alla fine è bello da ascoltare, però non serve una precisa conoscenza musicale, o mi sbaglio? Adesso arriveranno messaggi di gente che suona nelle bande. Credo che cambi molto, beh, tanto anche negli anni, ma anche da zona a zona. Io mi ricordo che tipo a Mondovì uno, prima di poter uscire, doveva farsi una bella gavetta sia nell'imparare bene a solfeggiare, ma anche a suonare. Ah, ok. E credo che mi dicono che nel Meridione una volta era quasi farlo per professione, per cui strumenti veramente, musicisti veramente notevoli. Sei più tornato in quella chiesa in cui sei stato alla fine 18 no. anni fa, giusto? L'epoca giusta, esatto, era 18 esatto. anni fa. Non sono neanche più tornato a San Francisco, e dalla foto che ho visto su Facebook è cambiato radicalmente in questi ultimi 18 anni. Sì, perché guarda, io banalmente ho proprio cercato il San John Coltrane African Orthodox Church e ho trovato il sito della chiesa dove c'è su tutto, e ho trovato questa foto che ho caricato sul profilo Facebook. È diversa da allora, immagino. Decisamente, cioè quando l'ho visto io era proprio un negozietto, quasi un garage. Senti, voi siete stati lì 4 ore... Ma quando ve ne siete andati via, loro stavano continuando? Sì, e ci siamo scampati il catechismo, perché in realtà l'invito era per il catechismo, che incominciava alle 9, e da lì ho capito cosa si intendeva per catechismo, fare la prova con lo strumento dei pezzi. Ah, il catechismo era una prova musicale? Sì, questo l'ho capito a posteriori. Ed era, hai detto, alle 9 di sera, quando tutto è cominciato? 9 di mattina, uno incomincia alle 9 di mattina. Ah, ok. Uno comincia a fare la sua prova con lo strumento, poi arriva e partecipa a questi assoli di musica jazz, poi, o sbaglio, no? Cioè il principio è quello. Solo, esclusivamente, a Love Supreme, dall'inizio alla fine. Ah, proprio solo, esclusivamente quello? Sì, sì. Tra l'altro, visto che appunto grazie a te io nella mia ignoranza musicale sapevo che fosse John Coltrane, ma non ne conoscevo bene la storia, più tardi voglio leggere un pezzo, c'è proprio una storia legata a come è nato questo pezzo, a come è nata questa canzone, a come lui l'ha creata, quando l'ha composta, quando gli è venuta in mente. Narra che l'abbia proprio sognato e poi ci ha dedicato tantissimo tempo a studiare, a cercare di ricreare questa melodia e per poterlo scrivere. Senti, tu adesso una sua ossessione. Ti occupi di marketing, giusto? Mi dicevi prima, Christopher. Sì, sì, sì. Per una grande azienda di italiana. Sì, sì, sì. Senti, continui a suonare oppure no? No, raramente, come ti ho detto prima, suono un paio di volte all'anno in una piccola banda in un paesino che è Pietrabruna sopra Imperia. La banda, insomma, continua a essere presente nella tua vita. Christopher, sì. Ti ringrazio per la chiacchierata e per il racconto. In bocca al lupo per tutto. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille, buona giornata. Ciao Christopher, ciao. Nel 1988 in Etiopia ho assistito al ballo del re David, un'antichissima cerimonia copta. Sembravano indemoniati, soprattutto i vecchi. Voi siete qui. È in barca a vela Christopher, con tutta la sua famiglia. No, a parte che sono partito forse un po' troppo carico. Rudy, puoi farmi ripartire la... ecco, così... Grazie. Voi siete qui. È in barca a vela con tutta la sua famiglia, Christopher. Così andava meglio così. Tra l'altro non è neanche con tutta la sua famiglia, perché fammela ripartire ancora. Guarda, perché non posso. Ne faccio una, vai. Voi siete qui. È in barca a vela con le sue due figlie, Christopher. È in barca a vela perché si vede proprio randa e fiocco tutte issate, anche se il mare è piatto, quindi non ci sarà una bava di vento. Lui è alle loro spalle, le due figlie hanno su degli occhialini, hanno la faccia simpatica, avranno, boh, non lo so, tra i 4 e i 7 anni. Christopher invece ha su una bella polo color salmone. Quelle polo color salmone che io mi ricordo solo di aver visto negli anni 90, credo. Le polo color salmone, Christopher, forse ce l'avevi nel cassetto. Ah no, ho capito tutto Christopher, hai ragione tu. È che uno dice, vado in barca a vela, non ci vado tante volte perché si vede che non sei proprio esperto su sta barca. Allora metto una maglia che magari non si sa mai, che se si rovina, non la tocco più. Divinità, sostantivo femminile. Natura divina, oggetto del culto nelle varie religioni, letterario, dottrina religiosa, teologia. Etimo dal latino divinitas divinitatis, derivato di divinus divino, data secolo XIII. Ci sono molti modi per ascoltare Voi Siete Qui. Uno è in diretta ed è quello che state facendo in questo momento, ma se ve lo siete persi o se proprio non potete ascoltarlo, non disperate, ci sono i podcast. Podcast. La storia di oggi... Stai registrando, Paolino? La storia di oggi è la... Potrebbe un po' essere destini incrociati la storia di oggi, no? Che è un bel giorno di primavera, quando Carlo si alza la mattina per andare a correre. Se invece queste cose vi hanno fatto schifo, potete sentire cose come queste. Se fossi svenuto sarei morto affogato, ma se passava troppo tempo, rischiavo l'ipotermia. Chiamai il figlio più grande, 6 anni, gli dissi... Piccolo, devi andare sulla strada a cercare qualcuno, altrimenti papà muore nel fiume. Oggi devi diventare grande. Perché sì, è vero che ogni storia è la nostra storia, ma scaricandocela in podcast, la possediamo per sempre. Podcast. E soprattutto non ve ne liberate più, è per questo che c'è questa ripetizione podcast, perché poi cancellare un podcast è complicato, eh? 349-238-6666, vi ricordo tutti i modi per scaricarlo tramite il sito della radio, nella sezione podcast, tramite iTunes, abbonandosi gratuitamente. Da poco c'è anche una app che ha creato apposta un ascoltatore che ha fatto tutto da solo per PC, Windows 7.8, giusto? Trovate tutti i riferimenti sul profilo Facebook. Luca si chiama lui, non ricordo il cognome, ma si chiama Luca. Luca Di Fino, la vostra divinità musicale. Bart Baccarat, scrive Cristina. Achille invece mi scrive: le 3B non sono Branduardi, Bennato e l'altro e Battiato, ma sono Bach, Beethoven e Brahms. Marco, la mia divinità musicale è Jaco Pastorius. E poi ancora Johnny Cash. Leonard Cohen, ho seguito 3 ore e mezza di concerto in arena a Verona, avevo in settembre a 78 anni, wow, già assorbirsi 3 ore e mezza di concerto non è poco. Invece Matteo mi scrive: il mio idolo è Mike Oldfield. Ma Mike Oldfield è quello di Tubular Bells, quello lì? Tubular Bells. Lui, mi ricordo, avevo comprato un'audiocassetta di... Non so perché avessi comprato un'audiocassetta di Tubular Bell. Forse è vero, forse ha ragione Bonini. Tutti hanno un disco, una musicassetta o un CD, forse troppo, di Mike Oldfield. Fabio non c'ha niente di Michael. Moonlight. Ah, ma lui è quello di Moonlight Shadow. Vabbè, è facile. Però puppati Tubular Bells per 60 minuti, eh? In macchina sulla Peugeot 205 Lacoste di mia madre, andando a prendere Davide Pirro e Mauro. Che imbarazzo, che momenti, erano gli anni 90. Poi dicono che erano stati difficili gli anni 80 e poi dicono che erano stati difficili quelli, figurati. Visto che si è parlato, torniamo a parlare di robe serie, non che Mike Colvin non lo sia, ma si parlava di John Coltrane, e lo stesso Christopher ci ha raccontato che c'è tutta una storia molto particolare che lo stesso Coltrane ha raccontato riguardo a come è nato, questo brano, questo pezzo che si chiama Love Supreme. Si parla di un sogno che lui ha avuto, e qui lo spiega meglio lui, lo spiega la moglie. Tutto è nato in realtà una notte quando lui giovanissimo faceva il servizio militare. Durante l'anno 1957 sperimentai, per grazia di Dio, un risveglio spirituale che doveva condurmi ad una vita più ricca, più piena e più produttiva. A quel tempo, per gratitudine, chiesi umilmente che mi venissero concessi i mezzi e il privilegio di rendere felici gli altri attraverso la musica. Sento che ciò mi è stato accordato per sua grazia. Ogni lode a Dio. Queste parole sono di John Coltrane, intervistato sulla genesi del suo album più famoso, A Love Supreme, Un amore supremo. La prima composizione del disco, Acknowledgement, contiene il mantra A Love Supreme, ripetuto più volte dallo stesso Coltrane alla fine della traccia. La musica contenuta nell'album segue uno schema accuratamente elaborato. Le quattro sezioni della suite rimandano a una specie di cammino spirituale. Le quattro parti hanno una forte connotazione drammaturgica. Ognuna di loro contribuisce a creare un climax di tensione, per poi raggiungere una distensione finale. Ashley Kahn, che è autore del libro sulla storia di questo album, racconta il contesto in cui nacque quel disco. Dopo aver completato i brani dell'album precedente, Crescent, che aveva segnato una svolta rispetto alle precedenti uscite, Coltrane era arrivato a concepire la sua musica come un'estensione del proprio sentimento religioso, che tendeva sempre di più verso una specie di religione universale, che inglobasse elementi un po' da tutte le religioni del mondo. Scrisse lui stesso le note di copertina e vi incluse una sua poesia. Scelse la foto di copertina che lo ritrae di profilo con lo sguardo serio, pensieroso, distolto dall'obiettivo. L'elaborazione delle quattro parti che costituiscono la suite di A Love Supreme è essenzialmente da collocarsi in una pausa di 5 giorni che Coltrane si prese nella tarda estate del 64. La moglie di Coltrane, però, Alice Coltrane, ha dichiarato che l'idea di base dell'opera era molto più vecchia e si basava su una visione che il musicista aveva avuto durante il servizio militare nel 1946, che però all'epoca non era riuscito ad interpretare. Coltrane entrò in studio di registrazione il 9 dicembre del 1964 e nel corso di una sola sessione, iniziata alle 8 e terminata a mezzanotte, nacque la suite A Love Supreme. Non è Radio 3 quella che state ascoltando, è sempre Radio 24, sono le 16:43 minuti, è che ogni tanto Tiziano Bonini ha degli slanci che è impossibile frenare. 349-238-6666, mi scrive Vittorio. Matteo, mi piacciono i messaggi che cominciano come Matteo, come un avvertimento. Matteo, c'è una serie TV che parla di uomini marching band, cioè di una banda. Parla di oggi. Se c'è il giorno top in cui non riesco a capire i messaggi, Margherita, è oggi. C'è una serie TV che parla di uomini marching band e religione, fa capire esattamente quello che dici. Il film si chiama, la serie TV si chiama Treme, è scritto Treme, come il quartiere di New Orleans. Grazie, Vittorio. Le mie divinità musicali sono i Casino Royale dal 1994, ma non esistono più i Casino Royale. No, hanno fatto un disco di recente. Sono Ma Giuliano Palma suona da solo, però gli altri faranno robe da sole. Però, no, io sono convinto che abbiano fatto un disco di recente, i Casino Royale. Ma un po' anche chi se ne frega. Per, se l'avessero fatto, avrebbe dovuto farci. Oh, l'altra sera ho visto sta serie sui Club Dogo. È sconvolgente, ragazzi. Ho cambiato canale e hanno sparato tre parolacce in 5 secondi. Una roba che 10 anni fa mi avrebbero detto: ma no, tu non puoi vedere. Quanti anni hai tu? 27, no, non puoi vederla. Sei troppo giovane per vedere sta roba. Non mi ricordo come si chiama, ha un nome strano che c'entra col club. Vabbè, ho smesso di suonare il clarinetto. Mi scrive non so chi, perché sono svenuto quando lo facevo da adolescente. Beh, ma che immagine orribile, scusami. Cioè, orribile e sembra pericolosa anche. Boom, e va giù. Mi sono promesso e sognato che riprenderò con Beatrice, mia figlia di 3 mesi. Vabbè, insomma, la prendi lunga, perché ha voglia di suonare il clarinetto se ha 3 mesi. Ultimo messaggio che leggo proprio per sfida, eh? Yamandu Costa, è brasiliano, si legge Cosa. Come si scrive? Suona la chitarra classica da Dio. Da grande gli dedico una chiesa anche a lui. Chi sei per dedicare? Niente, oggi chiediamo, dai. Diamo la linea a chiede asilo. Io ringrazio Mauro Pescio, ringrazio Fabio Cantadori, Margherita Ina e Tiziano Bonini. Ringrazio soprattutto Christopher. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, sono Marta, io vivo a Cuneo e la storia di domani è la mia e parla dei miei difficili trascorsi con il cibo e anche con la vita di tutti i giorni. Questa è la mia storia e io sono qui.